Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che tratta le notizie di attualità, lo sviluppo della cultura e del pensiero, il rinnovamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 705 e parleremo del potere alle prese con la vita selvatica. If you wanna be my friend, di libri da leggere in questa calda e difficile estate per provare a migliorare la propria consapevolezza di essere viventi fra altri esseri viventi, di qualche buona notizia in arrivo dal mondo naturalistico. La ricetta della settimana è affidata come al solito al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. La colonna sonora è curata da Gianluca Masala. Torniamo a parlare del Trentino. È una saga che non conosce pause e sembra anzi destinata a incrudelirsi per banali ragioni elettorali. Parliamo della lotta ingaggiata dal presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fogatti, leghista, contro gli animali selvatici. In questa saga si aprono continuamente nuovi fronti, fra orsi e lupi, e fioccano le condanne a morte, con immancabili ricorsi per via giudiziaria da parte delle associazioni animaliste. Ora sono all'ordine del giorno due nuove sentenze di morte, una già sottoscritta contro due lupi, un'altra annunciata contro un'orsa. Il Trentino, per la sua posizione, la sua conformazione, oltre che per le scelte compiute in passato, pensiamo al progetto Life Ursus, è una regione ad alto tasso di vita selvatica nei boschi, ma è diventata da qualche tempo un luogo pericoloso proprio per gli animali liberi. Non può sfuggire la rilevanza politica e culturale di quanto sta avvenendo in questa provincia. L'impegno messo dall'amministrazione leghista contro i selvatici a sedicente tutela delle attività economiche umane è di natura tutta politica e propagandistica. È una questione a un tempo di potere e simbolica. Il potere di dare la morte, va da sé, è la forma più piena di potere, in qualsiasi contesto e in qualsiasi tempo. E nella fattispecie non viene applicata ad animali qualsiasi, ad animali cioè sottoposti a ordinaria messa a morte, come avviene quotidianamente nei mattatoi. Si tratta piuttosto di animali selvatici e anche protetti da normative nazionali e internazionali. E perciò la loro condanna a morte, la loro eliminazione, è un'espressione di potere fortissima e in qualche modo gratificante per le persone che riescono ad esercitarla. Sono scelte che escono dall'ordinario. E qui subentra l'aspetto simbolico, non meno importante del potere effettivo. Per Fogatti e per tutti gli altri che compiono gesti del genere, la negazione della vita selvatica, il rifiuto della loro libertà, della loro piena, totale animalità, è una presa di posizione molto forte, molto eloquente. Implica lo schieramento in una logica di dominio dalle forme arcaiche, una chiusura alla vita altrui, a quell'animale, come a tutte le altre diversità. E gli animali selvatici, non dimentichiamolo, sono gli individui più liberi che ci siano. Pur nelle enormi difficoltà ambientali che sono costretti ad affrontare, non solo per l'ostilità del potere, ma anche, come ben sappiamo, per il degrado degli ecosistemi. E ciò nonostante lupi e orsi, per non parlare che dei selvatici diventati autentiche icone, anche se in negativo, sono proprio ciò che gli umani non riescono più a essere: liberi, incoercibili, non addomesticabili. Per noi che viviamo in società omologate, appunto addomesticate, nelle quali sono ammesse forme di libertà molto limitate, per quanto spesso ci illudiamo di essere profondamente liberi, l'autenticità della vita animale può essere fonte di invidia, di odio, oppure una leva sulla quale poggiare, violando quella libertà, la propria immagine di potenza. Possiamo forse spiegare così il peso che le vicende di lupi e orsi hanno assunto in Trentino e in prospettiva sulla scena nazionale, diventando da caso locale di estremismo politico un nuovo paradigma di una società in trasformazione. Una società che per uscire dal collasso economico, climatico e sociale avrebbe bisogno di stabilire nuove relazioni con il resto del vivente, ma nella quale esiste una forte corrente che non vuole alcuna trasformazione e anzi punta a radicalizzare il dominio tradizionale. È la lotta politica e culturale del presente. Detto tutto ciò, veniamo ai casi di cronaca. Riprendiamo la vicenda dei lupi da un lancio dell'agenzia ANSA dello scorso 26 luglio. L'agenzia scrive che il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fogatti, ha firmato un decreto per la soppressione di due lupi sul versante trentino dei Monti Lessini. Il decreto, con il via libera da parte dell'ISPRA, è stato emesso in seguito all'alto numero di predazioni di animali da allevamento registrate nella zona di Malga Boldera, nel comune di Ala. Si tratta del primo caso, scrive l'ANSA, di prelievo tramite abbattimento di due esemplari di lupo, specie protetta a livello europeo. Il prelievo, che verrà effettuato dagli operatori specializzati del Corpo Forestale Trentino, è stato deciso dopo che 16 bovini e due asini sono stati predati nel pascolo di Malga Boldera. La struttura, di proprietà del comune di Ala, è gestita dalla locale società allevatori e dispone di un recinto elettrificato di 3 km specificatamente pensato per dissuadere i grandi predatori. I lupi, dice l'ANSA, hanno tuttavia capito come evitare i cavi dell'alta tensione, riuscendo a effettuare una prima predazione il 3 giugno. L'ultimo attacco ai danni di tre vitelli risale al 22 luglio scorso. Il provvedimento, secondo l'ISPRA, non dovrebbe incidere significativamente sullo stato di conservazione della popolazione del Trentino Alto Adige, data la continua crescita degli esemplari registrata negli ultimi anni. Nell'ultimo rapporto della provincia, dice ancora l'ANSA, riferito al 2022, erano infatti censiti 27 branchi di lupi, a cui si aggiungono almeno 3 nuove coppie e un numero variabile di animali solitari. Fin qui l'ANSA. La decisione naturalmente ha suscitato la reazione delle associazioni animaliste. Il WWF ha giudicato sproporzionato, ma anche superficiale, il provvedimento, contro il quale è stato prontamente presentato un ricorso al TAR, che non ha però accettato la richiesta di sospensione. Non si è trattato tuttavia di un vero e proprio via libera, semmai di un rinvio della decisione al 14 settembre, data di una nuova riunione dei giudici. Secondo la LAV, Lega Antivivisezione, la formula usata dal TAR introduce elementi di ambiguità. I due animali, dicono LAV insieme a WWF e LNDC Animal Protection, che sono i firmatari del ricorso al TAR, vengono ora a trovarsi nello stesso limbo in cui si trovava JJ4, potendo essere uccisi prima che vi sia un iter giudiziario che autorizzi questa operazione. Si tratta di un paradosso giuridico che eviteremo ad ogni costo, batteremo ogni strada possibile per impedire che questo decreto possa produrre esiti nefasti, irreparabili sui due animali e fungere da precedente pericoloso per l'intera popolazione italiana di lupi. È una vicenda, come si vede, molto controversa anche sul piano giuridico e dagli effetti pratici incerti, forse troppo incerti, anche se il presidente del TAR, pur confermando l'udienza del 14 settembre, ha specificato che l'ordinanza resta pienamente vigente e questo vuol dire che i due lupi, in attesa del pronunciamento, possono addirittura essere uccisi. It's unfortunate that when we feel a stone, we can roll ourselves over, 'cause we're uncomfortable. Oh, where the devil makes a sin, but we like it when we're spinning in his grin. L'altra notizia di cronaca dal Trentino riguarda la vicenda di due giovani cacciatori, a loro dire disarmati, entrati in contatto con un'orsa e coi suoi cuccioli, e da lei aggrediti, sia pure senza esiti irrimediabili. Prendiamo la notizia, avvenuta nelle Alpi Giudicarie, dal Corriere della Sera, che scrive: un'escursione all'alba fra due amici, un operaio 24enne di Roncone e un 27enne, muratore, anche lui di Roncone, si è trasformata in un incubo. Alle 6 i due si sono addentrati nei boschi a 1970 metri, sopra il loro abitato, per avvistare ungulati, disarmati, garantiscono le autorità, che riferiscono come i due siano cacciatori per passione, si sono imbattuti in una mamma orsa che dormiva con il suo cucciolo. Urla di panico e una fuga repentina hanno scatenato la reazione dell'animale, che si è lanciato all'inseguimento dei ventenni. Per istinto i due ragazzi si sono separati. Il 27enne ha imboccato un sentiero. Il più giovane si è arrampicato su un albero. A salvare i due trentini è stato un formidabile gioco di squadra improvvisato per distrarre l'animale. L'orsa, riferisce il sindaco di Roncone, Franco Bazzoli, ha iniziato a inseguire il più adulto per il sentiero, così l'amico in cima all'albero ha iniziato a urlare per richiamare la sua attenzione. Il predatore è tornato da lui, mentre a sua volta l'altro amico gridava per riavvicinarlo a sé. Con una zampata fulminea l'orsa è però riuscita ad agganciare con gli artigli una ghetta del 24enne, facendolo precipitare a terra su una roccia. Mamma orsa e il suo cucciolo si sono quindi allontanati, mentre sotto shock i due ragazzi si sono rifugiati in auto, raggiungendo il pronto soccorso di Tione, dove il più giovane è in osservazione per una grave contusione al costato. Poco convinte di questa ricostruzione sono però le associazioni animaliste. La Lava, per esempio, offre una sua interpretazione dei fatti e scrive: «Aumentano i dubbi sulla dinamica della vicenda. Da ricostruzioni emerge che i cacciatori abbiano svegliato l'orsa con grida, vedendola dormire con il suo cucciolo. Alle 6 del mattino i due cacciatori, a loro dire disarmati, si sono avventurati in un bosco nei pressi di Roncone. Si stavano dirigendo verso una postazione di caccia, nonostante il silenzio venatorio, ad ammirare, dicono loro, i caprioli. Ma durante il tragitto, su un sentiero, si sono imbattuti in un'orsa che dormiva col suo cucciolo. L'animale, svegliato di soprassalto e spaventato, ha iniziato a inseguire due cacciatori, che sono fuggiti urlando, chiaramente inconsapevoli, nonostante il loro ruolo, che dovrebbe renderli conoscitori del mondo animale, che tale comportamento è fortemente sconsigliato in una situazione del genere. Uno dei due, inoltre, ha cercato riparo su un albero, identificandolo come via di fuga più sicura, anche in questo caso ignorando le grandi capacità di arrampicata dei plantigradi, albero da cui poi è rovinosamente caduto, procurandosi delle lesioni. Accaduto questo, l'orsa si è allontanata immediatamente, senza nemmeno graffiare o mordere il ragazzo. La LAV commenta così: «Tale situazione coincide perfettamente con la dinamica del falso attacco. L'orso, animale estremamente schivo e pauroso, incontra una o più persone a distanza ravvicinata senza averle percepite e quindi reagisce per difendersi, o in questo caso per difendere il proprio cucciolo, caricando ciò che ritiene una minaccia, finché non si considera ormai al sicuro. In queste situazioni bisogna sapere come comportarsi, altrimenti c'è il pericolo di mettere a rischio la propria vita e quella dell'animale». I fatti sono dunque in via di accertamento per un incontro che sembra essere stato del tutto fortuito. Ma intanto Maurizio Fogatti, e nessuno a questo punto poteva dubitarne, si dice pronto a firmare un'ordinanza di abbattimento dell'orsa in questione, a suo giudizio problematica. Ordinanza che sarà possibile firmare ovviamente quando gli uffici avranno accertato i fatti e trasmesso al presidente della provincia la loro relazione. Intanto le agenzie di stampa ricordano che a ottobre in Trentino ci saranno le elezioni provinciali e che Fogatti, candidato unico delle destre, presenterà anche una propria lista. I'm paying the price of living life at the limit. God, I'm in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the pain's at heart. Lives in a house, a very big house in the country. Abbiamo cominciato la settimana scorsa a proporre alcune buone letture per l'estate, facendoci aiutare da alcuni dei nostri più titolati collaboratori. Li abbiamo chiamati non consigli, bensì conigli di lettura, una piccola boutade in linea con lo spirito della nostra trasmissione. I conigli di oggi sono di Massimo Filippi, professore di neurologia e pensatore dell'antispecismo, autore, fra gli altri, di libri come Questioni di specie e Crimini in tempo di pace, quest'ultimo scritto con Filippo Trasatti, libri entrambi pubblicati dall'editore Eleutera, e sono anche questi conigli di lettura. Una buona estate a tutte e a tutti. Inizierò la mia proposta di letture partendo da Jason Moore, sociologo marxista, in occasione della riproposta del suo fondamentale Ecologia Mondo da parte dell'editore Ombre Corte, che ha già in catalogo, anche oltre a molti altri libri interessanti sulla questione ecologica, dello stesso autore anche Antropocene o Capitalocene. Jason Moore, come dicevo, da una prospettiva marxista, innanzitutto ci propone di sostituire il delirante termine antropocene, che manifesta ancora una volta il nostro esasperato antropocentrismo, tanto da chiamare, come dice il Comitato Invisibile, un'intera eone della vita con il nostro nome. Ci propone appunto di sostituire il termine antropocene, profondamente depoliticizzante, con il termine capitalocene, cioè la crisi ecologica che ci troviamo di fronte non è una questione di conflitto tra uomo e natura, ma è il risultato necessario del processo capitalistico. L'altro concetto che Moore sviluppa è il concetto di ecologia mondo, per cui le dinamiche sociali e le dinamiche naturali sono altamente interconnesse ed una rilancia l'altra, tanto che anche il capitalismo ha una sua ecologia mondo, un'ecologia mondo che gli ha permesso di distruggere il pianeta per creare merci a buon mercato, e pianeta che oramai ha esaurito la sua riserva, e quindi quelle frontiere su cui il capitalismo si è sempre alimentato si trovano oggi allo stremo. E appunto la denuncia passa attraverso il riconoscimento, la denuncia di Moore, il riconoscimento delle pratiche associate all'arroganza e all'aggressione capitalistica, definendo appunto il concetto di natura a buon mercato, cioè l'idea che ciò che non è l'umano paradigmatico lo si può ottenere a basso costo perché svalutato, e il concetto fondamentale, che è il concetto di natura che fonda l'ideologia capitalista. Se ci pensate, come Moore sottolinea, è un inquietante naturalismo quello che svaluta la posizione delle donne, delle soggettività razzializzate, degli animali tra gli altri. Una seconda lettura che trovo altamente interessante è il lavoro di Vincent Desprez, Autobiografia di un polpo, dove la filosofa di Liegi prosegue il suo lavoro di fare domande significative, interessanti agli animali e di avvicinarli con garbo se vogliamo ottenere una risposta adeguata. Ella si sposta dall'approccio più classico ad un approccio da fabula speculativa per provare a farci sentire i canti del pianeta, e si interfaccia con una serie di animali, i ragni, che provano a far terminare il frastuono delle macchine, con i vombati che ci propongono una cosmologia più inclusiva ed accogliente, e con i polpi che provano a combattere la pesca intensiva e l'inquinamento degli oceani in quanto temono di non potersi più reincarnare. Quindi a metà tra lo scientifico e il narrativo e la poesia, Vincent Desprez costruisce una storia delicata in cui finalmente gli animali rispondono. Per passare dalla saggistica alla letteratura, sicuramente testo a mio parere di estremo interesse è la raccolta poetica della poetessa e drammaturga di origini pugliesi, ora abitante a Roma, Teodora Mastrototaro, che ci ha proposto recentemente una silloge intitolata Zoologia abitativa, in cui attraversiamo una serie di stanze di una immaginaria casa, incontrando però degli animali in carne e ossa, a volte animali domestici, a volte piccoli animali che generalmente creano repulsione, con i quali ella costruisce una geografia dimessa che prova a proporci un nuovo rapporto umano-animali all'interno di uno spazio di coabitazione. E gli animali e umani qui si intrecciano, e direi che una delle figure paradigmatiche è quella del pesce rosso rinchiuso nella classica boccia d'acqua, che diventa padre Alzheimer, demente assente, padre museo, padre pesce rosso, gira in tondo dentro al vetro. In questa indistinzione umano-animale, in questa indistinzione degli affetti, Teodora Mastrototaro quindi ci propone una casa come prodotto deperibile, come lei scrive, da conservare nella memoria, e ci lascia dicendo che nevica simile all'acqua ma sfinita, dalla casa sgorga in me questa bufera che ci mantiene in vita e si allontana, eppure vi saluto durante un'altra attesa. Sempre di Teodora Mastrototaro, in collaborazione con Massimo D'Arcangelo, un piccolo testo di Pietre Vive Editori destinato a bambini e bambine, adolescenti che si avvicinano alla questione animale, è Voce del verso animale, è una breve silloge poetica scritta a quattro mani che a mio parere va letta all'inverso, partendo appunto dall'orrore del mattatoio per risalire ad un possibile mondo liberato. Infine vorrei chiudere questa breve rassegna parlandovi di È tempo di mordere e dei Troglodita Tribe, libro uscito per Pop Edizioni, libro che vi dovete cercare perché Pop Edizioni rifiuta la grande distribuzione, quindi non ve lo potete fare inviare a casa. Non potete trovarlo nelle grandi librerie a catena, ma lo trovate nelle piccole librerie indipendenti, dove appunto in una serie di brevissimi racconti a metà tra l'immaginazione, l'horror, lo splatter e l'ironico, i Troglodita Tribe ci propongono una rivolta dei cani che perdono quel loro alone di stupidità, se mi consentite, stupidità ottusa di sottomissione fedele al padrone, per iniziare appunto una rivolta. Quindi ancora una volta stiamo parlando di resistenza degli animali, di agency animale, un'agency che però non è più pensata solo in termini muscolari, come spesso macisti e muscolari, come spesso accade, ma è anche una resistenza in qualche modo appunto passiva. Basti pensare al cane del racconto 85, che di fronte al ferimento del cacciatore che accompagna, si finge sordo per non soccorrerlo, per poi appunto schiacciare il grilletto che chiude una storia di notevole violenza. Qua troviamo appunto le due agency, quella più muscolare di chi schiaccia il grilletto, ma anche quella di chi, fingendosi sordo, si oppone, quasi come Bartleby lo scrivano, preferirei che no, alla violenza istituzionalizzata all'interno della quale viviamo. Like a falling star. poteva il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni esimersi da unirsi con una delle sue fantasiose ricette ai nostri conigli di lettura? Certo che non poteva. E infatti siamo pronti ad ascoltare la proposta di Gabriele, che è autore, ve lo ricordiamo, di un altro libro altamente consigliabile, Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Tra le mie passioni, oltre alla cucina, al cinema e alla musica, c'è sicuramente anche la letteratura. Amo leggere di tutto, ma un solo autore da oltre 30 anni ha uno spazio riservato sul mio comodino. La ricetta di oggi è ispirata ad un suo romanzo pubblicato per la prima volta a capitoli mensili nel 96. E ricordo che per non aspettare il mese successivo mi sono letto gli ultimi capitoli in inglese. Al re va la mia dedica. Un ringraziamento a Stephen King per tutte le notti insonni. Gli ingredienti per 4 persone per il miglio verde sono 200 g di miglio decorticato, 400 ml di infuso a di tè verde, 2 pomodori verdi, un cuore di sedano, un peperone verde, 200 g di fagiolini, 2 zucchine, uno spicchio di aglio, aneto e menta, una scorza di limone, il succo di mezzo limone, un cucchiaino di capperi, olio extravergine di oliva, sale e pepe. In una padella, con solamente un pizzico di sale, fate tostare il miglio per 5 minuti, facendo attenzione a non bruciarlo. Coprite con l'infuso di tè verde e fate cuocere per 15 minuti. Togliete dal fuoco e lasciate assorbire tutto il liquido, quindi prima che si raffreddi, sgranate bene con il mestolo, condite con 2 cucchiai di olio extravergine e lasciate raffreddare. Nel frattempo pulite i fagiolini, togliete le punte, tagliateli a pezzetti di un paio di centimetri e scottateli in acqua salata per 4 minuti. Scolate e tenete da parte. Tagliate il peperone, i pomodori verdi e le zucchine a quadretti e affettate il cuore di sedano. Tritate l'aglio e fatelo rosolare in una padella con un cucchiaio di olio extravergine. Unite i peperoni e dopo qualche minuto le zucchine e i fagiolini. Fate saltare per pochi minuti a fuoco vivo aggiustando di sale e pepe. Tagliate la scorza di limone a lamelle sottili e tritate una parte dei capperi. Condite il miglio con le verdure saltate, aggiungete i pomodori e il sedano crudi, le scorzette di limone e di capperi. Aggiungete qualche rametto di aneto e le foglie di menta, il succo di limone e un cucchiaio ancora di olio extravergine. Servite decorando con qualche cappero intero, scorzette di limone e rametti di aneto. Con una piccola notizia conservazionista positiva che arriva dalla Sardegna, riguarda il progetto Life Safe for Vultures e annuncia l'involo del primo esemplare capovaccaio nato in Sardegna dalla coppia che dal 2019 si è stanziata all'interno del parco naturale regionale di Porto Conte. Speriamo che questa notizia sia di buon augurio per questa complicata estate 2023. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Valentina Reggioli, Anna Granata, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesco Panier e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.